Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! No, non è... Said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. E buonasera, buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova puntata di Nervature. Questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Io sono Addu e Nervature, appunto, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio e quant'altro. Oggi puntata specialissima, in realtà avete già sentito, per così dire, una preview alla scorsa puntata, ovvero sto parlando dell'intervista a Nicole Rose, erborista anarchica inglese, che appunto vi ho già mandato nella scorsa puntata, però in versione originale, quindi tutta in inglese. Quest'oggi invece finalmente avrete il piacere di sentirla doppiata, tradotta, quindi il doppiaggio è artigianale come tutto quello che facciamo, per cui perdonate eventuali errori che potreste cogliere e sentire. Comunque la traduzione c'è tutta, quindi io non mi prolungo ulteriormente, vi lascio subito appunto all'intervista. Dico soltanto un attimo i contatti della radio, così che se volete scriverci lo potete fare, e ecco come lo fate: dal pad, il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi, e lo raggiungete dal sito, dal link, scusate, direttawombat.vado.li. Comunque andate anche a curiosare il sito radiowombat.net, ascoltateci anche sulle frequenze AM, sulle 13.59 in area fiorentina. Ecco, ultima informazione che vi do: le musiche che sentirete quest'oggi, in questa puntata, sono tutte di Davy Sicard, quindi grandissima stima per questo cantautore. Molto bene, vi lascio all'intervista e buon ascolto, ci risentiamo settimana prossima sempre con Nervature, rimanete connesse e fateci sapere cosa ne pensate. Ciao! Ah, tiens, bon, viens là. petit bouet grand voyage. Déparé pour sort la grand voile. Ni descend nous léger. Pas pour m'asiner jamais. L'aurait vite sa vie en cauchemar. Ciel de cuny noir somnias, et là commence à entendre et l'orage. Le vent l'a chaviré, la mer l'a démonté, ça la foule l'a fait de naufrage. Ah, tiens pour sa force m'y a trouve courage pour mettre à moins de bout pour moi m'y voir un bout de la terre pour planter le bout de l'oukère il reste pour jouer pousser grand malouya. Hello, hello Nicole, and I'm so happy to have you here. Ciao Nicole, sono molto contenta e emozionata di averti qua, finalmente ti posso intervistare e abbiamo in realtà parlato di te, dei tuoi progetti, in particolare dell'erbario anticarcerario qui su Nervature, ma in realtà anche in altre trasmissioni di Radio Wombat. E oggi quindi vorrei un po' sfruttare questo tempo insieme per chiederti un po' chi sei, i tuoi vari progetti e quindi ecco, per iniziare ti chiederei magari se ti vuoi semplicemente presentare, di quello che preferisci di te, magari ecco se ci racconti come sei entrata in contatto con le piante e quali sono i tuoi studi sull'erboristeria. Like, if you want to introduce yourself, to say whatever you want, maybe how you got in touch with plants, how, what are your studies about herbalism, and yeah, I give you the microphone. Okay, amazing. Thank you so much for contacting me and for sharing the work. Ok, fantastico. Sì, intanto grazie mille per avermi contattata e per aver già condiviso il mio lavoro. Allora, sì, sono Nicole, vivo nel sud-ovest dell'Inghilterra e sono una militante anarchica. Fin da molto molto giovane, quindi tipo a 10 anni, ho scoperto l'anarchismo e poi sono stata attiva in molte lotte, soprattutto nella liberazione animale. Poi sono finita in prigione. Ho ricevuto una condanna a 3 anni e mezzo quando avevo 21 anni, che ormai è un bel po' di tempo fa, ora ne ho quasi 40. Ma è stato proprio in prigione che ho costruito questa relazione con le piante e ho iniziato a entrare in connessione con loro, nei giardini del carcere, studiandole. E sono riuscita poi a ottenere dei fondi per fare un corso di erboristeria e poi una volta uscita la mia passione è cresciuta sempre di più. Ho iniziato a preparare rimedi, coltivare piante e partecipare a diversi progetti legati alla terra. Doing a lot of medicine making and growing and getting involved in different like land projects and then a long time went by. I was mostly active in like prisoner support stuff. Poi è passato molto tempo durante il quale sono stata attiva soprattutto nel supporto ai prigionieri e nelle lotte contro il sistema carcerario. A un certo punto però sono andata completamente in burnout, una cosa che so che molte persone sperimentano. E questa esperienza mi ha avvicinato ancora di più all'erboristeria perché stavo davvero molto male. Così ho iniziato a studiarla anche in relazione alla guarigione da malattie croniche, traumi e PTSD, cioè disturbo post-traumatico da stress. E quindi ho deciso di avviare un progetto chiamato Solidarity Apothecary, che tradotto è erboristeria solidale, e questa, diciamo, farmacia solidale supporta le persone che subiscono violenza da parte dello Stato. Certo, è una definizione abbastanza ampia, ma in pratica invio libri ai prigionieri, o meglio un gruppo di noi lo fa, in tutto il mondo, incluso il libro Prisoner's Herbal, di cui avete già parlato nel programma. Preparo anche rimedi e pacchi di cura per persone che subiscono repressione e per i familiari dei detenuti. Poi per 4 anni sono anche stata in Francia con un progetto chiamato Mobile Herbal Clinic, che esiste ancora oggi, dove offriamo primo soccorso erboristico e assistenza sanitaria a rifugiati e persone in movimento. Faccio anche parte di una clinica gratuita anarchica chiamata Black Flag Herbal Clinic e seguo persone individualmente nei loro percorsi di salute, spesso con un sistema di contributo flessibile. Inoltre organizzo corsi online per imparare sull'erboristeria e sul trauma, gratuiti per chi ne ha bisogno e infatti ovviamente nessuno viene escluso per mancanza di soldi. Ho anche un podcast chiamato Frontline Herbalism Podcast e quindi sì, in generale tutto il mio lavoro ruota attorno all'erboristeria e alla violenza dello Stato. A livello personale sì, ho una bambina piccola che ha quasi 2 anni e vabbè, direi che questa è una breve introduzione a tutto quello che faccio. I think that's a brief introduction. Ok, tutto molto bello e tutto collegato alle piante poi, ovviamente. Mi piacerebbe allora iniziare questa conversazione proprio dalle piante a questo punto. Allora, dicevi che sei entrata in contatto con loro soprattutto quando eri in prigione e quindi da quello che ho capito è stato il momento in cui hai iniziato a sentire di più proprio il bisogno anche delle piante. E quindi se ti va magari ci racconti un po' di più com'è nata questa connessione e come. Allora, sì, certo. Rispetto all'esperienza in prigione ero molto ingenua e pensavo che andarci avrebbe significato non avere più alcun contatto con la terra. Ero cresciuta molto attiva nella liberazione animale ed era proprio il periodo in cui le persone erano super attive anche per la liberazione della terra, tipo Earth First o Green Anarchism. Quindi credo di aver sempre avuto una relazione forte con la terra. Però è stato solo in prigione che ho avuto davvero il tempo di rallentare completamente e costruire relazioni dirette uno a uno con le piante. Ricordo quando sono entrata in carcere, dopo il processo e tutta quella merda, e ho visto tutti quei cazzo di denti di leone lungo il bordo del vialetto di cemento e mi sono messa quasi a ridere da sola pensando ma che cazzo di idiota sono stata, credevo che non avrei più visto una pianta per chissà quanti anni. E invece ero lì e perfino in quella cazzo di prigione con 500 donne e tutto quel cemento c'erano piante incredibili che crescevano nel cemento, oppure c'erano piccoli pezzi di prato e anche un cortile più grande con dei fiori, con delle rose. E ho trovato lavoro nella prigione perché sì, più o meno devi lavorare, cioè non è che sei obbligata, ma se non lo fai finisci chiusa in cella 24 ore al giorno e diciamo non è propriamente il top. E ho lavorato nei giardini del carcere, questo significava tra virgolette diserbare, quindi strappare le piante, cosa in cui ovviamente ero pessima e che non volevo fare, però mi piaceva stare fuori e proprio attraverso questo ho iniziato a costruire una relazione molto pratica con le piante, così assaggiavo le foglie, portavo le radici in cella per dormirci, cioè tipo sotto il cuscino per sentirmi più al sicuro. Preparavo tisane, beh certo non è che potevo fare tutte quelle cose fighe come tinture o simili, però potevo ogni giorno sedermi fuori con una pianta per quanto possibile, magari ovviamente solo per quei 20 minuti d'aria nel cortile del carcere. E questo significava che vedevo quella stessa pianta attraversare tutte le stagioni, inverno, primavera, estate, e si creava un'intimità che era completamente diversa da qualsiasi cosa avessi vissuto prima. Era proprio conoscere davvero la pianta, il suo sapore, le sue proprietà medicinali, sperimentare in ogni modo possibile, ma con poche piante. Infatti l'erbario anticarcerario contiene 10 schede di piante e sono proprio quelle 10 piante con cui ho costruito una connessione profonda nel corso di circa 2 anni. That was like very different to me than anything I had experienced. Ok, quindi cioè, praticamente avevi delle compagne che erano le piante, cioè le piante che ti trovavi già lì, erano lì proprio come eri te. E, sì, esatto. Però come facevi a sapere quali foglie assaggiare e quali no? Perché cioè, molte piante sono commestibili, ma mica tutte, quindi cioè, ne sapevi già qualcosa. Beh, allora, sono stata davvero molto molto fortunata perché ero con altre persone che sapevano di erboristeria. C'era per esempio una donna scozzese, Helen, che aveva tipo più o meno 70 anni ed era stata giardiniera per tutta la vita, quindi mi parlava delle piante. E poi c'erano due donne con un background a viaggiatrici che avevano ancora una buona relazione con l'erboristeria e anche loro mi insegnavano delle cose. E poi ho ottenuto una specie di borsa di studio, quindi un supporto economico per fare un corso di erboristeria a distanza. E una volta ho iniziato a studiare, beh, vabbè, ero completamente ossessionata. Ok, quindi cioè, praticamente passiamo già alla domanda appunto che ti volevo fare, e, ovvero com'è che hai imparato, come hai studiato erboristeria e dicevi appunto che hai iniziato già mentre eri in prigione. Sì. Ok, quindi hai iniziato lì, poi continuato e quindi cioè, com'è che sei arrivata a definirti erborista? Allora, sì, beh, molto è passato attraverso corsi a distanza. In Inghilterra c'è un sistema abbastanza specifico per cui puoi fare una laurea in medicina erboristica, ma per accedervi devi avere un controllo della fedina penale perché è classificata una professione sanitaria. E l'organizzazione non voleva farmi studiare perché dicevano che avrei portato discredito all'erboristeria, cioè in pratica che l'avrei messa in imbarazzo, capisci? Cioè. E quindi per un sacco di tempo non ho seguito una formazione clinica formale perché ero troppo incazzata dal fatto che non mi permettessero di studiare a causa del mio passato. E poi comunque non volevo nemmeno far parte di quel tipo di sistema istituzionale perché sono un'anarchica e quindi non ho detto al giudice di provare rimorso perché avrei dovuto dirlo a un'organizzazione di medicina erboristica, cioè loro era quello che volevano loro, che io scrivessi una dichiarazione dicendo che non avrei mai più minacciato la professione, cosa che tra l'altro ironicamente spero di fare ogni giorno con la Solidarity Apothecary. Così pensavo che sarei rimasta un erborista autodidatta per sempre. Poi però ho iniziato a sentire sempre di più i limiti delle mie conoscenze, soprattutto dal punto di vista clinico. Non ricordo esattamente l'anno, però a un certo punto ho trovato una scuola in Irlanda, la Plant Medicine School, dove ho studiato. Era molto simile al programma del Regno Unito, 4 anni, migliaia di ore di formazione, davvero completa. E loro mi conoscevano già, conoscevano il mio lavoro e mi hanno detto subito, sì, certo, dai, vieni a studiare con noi. E quindi sono stata davvero grata di aver trovato una scuola che supportasse anche le mie posizioni politiche e che mi permettesse di fare la formazione clinica. Ed è stato proprio grazie a quella formazione che ho acquisito la fiducia per seguire le persone individualmente. Però vabbè, con la medicina erboristica è così, impari per tutta la vita, non è che fai un corso e diventi una brava erborista, cioè per niente. È solo uno strumento per sviluppare conoscenze e competenze, avere supporto. In realtà anche dopo aver finito la formazione clinica continuo a studiare continuamente, leggo, seguo corsi online, approfondisco sempre di più perché c'è davvero tantissimo da imparare ed è proprio questo che rende l'erboristeria così affascinante e che mi appassiona da così tanto tempo. È davvero una relazione che dura tutta la vita. Ok, ok, capisco. Capisco molto bene perché anche se non studio erboristeria, comunque diciamo che ho appena iniziato a studiare giardinaggio e già quello è un argomento vastissimo, quindi sì, posso immaginare che non si smetta mai di imparare. Sì, esatto. Ok, quindi cosa è successo quando sei uscita di prigione? Cioè, per quanto riguarda l'erboristeria, tutti i tuoi progetti, hai iniziato subito con la Solidarity Apothecary oppure è passato del tempo prima? Dicci un po'. Allora, sì, sono passati diversi anni. Quindi, sono uscita quando avevo tipo 22 o 23 anni, 20, boh, e ho iniziato la po'. No, vi aspetta, non lo so, scusami, ho il cervello fuso. Penso di aver iniziato nel 2018. Oh madonna, quindi non mi ero resa conto che fosse passato così tanto tempo. Beh, comunque, per i primi anni avevo ancora un altro lavoro e l'apothecary era solo uno dei tanti progetti. Col tempo però è diventato sempre più grande e solo nel 2023 ho iniziato a ricevere uno stipendio da questo progetto perché ho lanciato un corso online. Quindi diciamo è solo da allora che è diventato davvero un lavoro a tempo pieno per me. E, dopo la prigione comunque avevo studiato anche orticoltura e produzione alimentare, quindi quando sono uscita ero molto attiva in un gruppo chiamato Reclaim the Fields e facevamo molte attività legate alla terra, all'autonomia alimentare, alle lotte per la sovranità alimentare e alla solidarietà con i contadini in tutto il mondo. Mi piaceva molto, ero davvero appassionata. Ho anche fondato una cooperativa di lavoratori in cui facevamo formazione comunitaria sul cibo e altre cose simili. Però, avendo comunque un background nella liberazione animale, essendo vegana, ho trovato tutto questo sempre più difficile, insomma, perché molte persone allevavano animali. Quindi a un certo punto è diventato troppo complicato per me sentire una vera affinità politica con queste persone. E nel frattempo diventavo sempre più appassionata di erboristeria e la mia vita era così segnata dal sistema carcerario e dal lavoro di solidarietà con i detenuti che alla fine è stato come dire ok, dai, devo concentrarmi su queste cose. E quindi nulla, ho scelto di concentrarmi sulla medicina erboristica e sul supporto ai prigionieri. Eventually it just became like, right, I just have to focus on these things. And then I chose to focus on herbal medicine and on, yeah, on prisoner support, basically. Sans doute as-tu vu la douleur qui était en train d'assécher mon cœur. J'avais versé toutes mes larmes et même déposé les armes, prêt à me rendre à l'évidence. Mais au-delà de toutes mes espérances, peut-être avais-je toujours en moi ce qui fait que je me retrouve en toi. Et est-ce pour cela que tu as choisi de m'aider à reprendre mes esprits? Le vrai et unique chemin, mon destin entre mes mains. Oh Maloya, Maloya, Maloya. Oh Maloya, qu'as-tu fait? Oh Maloya, Maloya, Maloya, qu'as-tu fait de ma vie? Oh Maloya, Maloya, Maloya. Oh Maloya, qu'as-tu fait? Oh Maloya, Maloya, Maloya, qu'as-tu fait de ma vie? Autant de mots qui te ressemblent. Tiens beau, Kirmaron. Autant de mots qui portent ton nom. Sobat, Sobaté, Sakouille, Sakouille, Aliton, Boale, Kirmaron. Sobat, Sobaté, Sakouille, Sakouille. Okay. Wow. I can understand your point of view. Yeah, about the animals or the farmers. Yeah, makes sense. I mean. Yeah. Okay. So, if you, I'd like to ask you, if you can like tell us how the Solidarity Apothecary just. Born, if there was like a moment, an episode or a decision, a strong decision, and if you started this project on your own or if someone else was with you. Yeah, so I remember that exact moment. In my car outside of my friend's prison. And I would drive 4.5 hours every Sunday to visit her and then drive 4.5 hours home. And she had cancer at the time and was really ill. Okay, sì, capisco il tuo punto di vista riguardo agli animali e agli allevamenti. Ha senso. Allora, vorrei chiederti se puoi raccontarci a questo punto com'è nata la Solidarity Apothecary, se c'è stato magari un momento preciso, un episodio, una forte decisione che ha appunto dato inizio a questo progetto e se eri da sola o con qualcun altro. Sì, ricordo esattamente quel momento. Ah no, dai, racconta. Allora, ero in macchina fuori dalla prigione dove stava una mia amica. E ogni domenica guidavo 4 ore e mezza per andarla a trovare e poi altre 4 ore e mezza per tornare a casa. Lei aveva un cancro in quel periodo ed era molto malata. E avevo anche un altro amico in prigione che aveva forti tendenze suicide e che infatti alla fine è morto in carcere. E io ero semplicemente esausta, distrutta dal vedere ogni fine settimana tutti questi familiari dei detenuti, persone con vite simili alla mia e vedere l'impatto dello stress sui loro corpi. E mi rendevo conto di quanto fossi fortunata ad avere accesso alla medicina erboristica, a poter prendermi cura di me stessa, a sentirmi... Cioè, credo di essere stata molto più forte di tante altre persone proprio grazie a questo privilegio e all'accesso alla medicina. E poi mi ricordo di aver pensato, voglio creare un progetto che sia specificamente per i familiari dei prigionieri. Avevo un piccolo quaderno, ho iniziato a scrivere dei nomi, ho scritto Solidarity Apothecary e lì è stato tutto chiaro. Poi sai, io faccio sempre tutto in fretta, quindi nel giro di un mese stavo già costruendo il sito, chiedendo a un'amica di fare il logo e così via. E, comunque avevo già passato diversi anni a sostenere le persone in modo informale con rimedi erboristici. C'è per esempio una sezione locale dell'Anarchist Black Cross, una rete internazionale che supporta anarchici e persone che subiscono repressione, e io inviavo rimedi erboristici a persone dentro quella rete. E a un certo punto ho deciso che volevo trasformare tutto questo in un progetto vero e proprio, ma allo stesso tempo stavo anche attraversando un momento difficile nei gruppi, cioè dopo 20 anni di collettivi, vabbè dai, insomma, sapete anche un po' com'è, dinamiche tossiche, classismo, sessismo, persone che ti danno per scontata, lavoro non pagato, cioè ero completamente esausta di questi collettivi disfunzionali e di essere trattata male, di questo meccanismo che porta tutti al burnout. Così ho deciso, voglio fare questa cosa da sola, come una fonte di nutrimento e di piacere. E beh, penso sia stata una delle decisioni migliori della mia vita. Ha fatto sì che l'apothecary diventasse qualcosa pieno di gioia, creatività e forza, anche nel mio rapporto con la terra. E in qualche modo potevo semplicemente essere me stessa, anche perché ho vissuto molti traumi crescendo, problemi di fiducia, problemi di abbandono, quindi sì, continuo comunque a lavorare in collettivi e quasi tutto il lavoro della Solidarity Apothecary è fatto insieme ad altre persone. Però è stato davvero bello avere questo spazio come progetto individuale e sì, cioè anche se sono ancora io a fare la maggior parte del lavoro, collaboro con le persone in tutto il mondo, il che è fantastico. Credo nella collettività e nel fatto che dobbiamo fare le cose insieme, ma penso anche che sia totalmente giusto che le persone possano lavorare da sole, che sia scrittura, musica, giardinaggio o altro. Credo che gli esseri umani abbiano bisogno di esplorarsi anche come individui. E per me è proprio questo che offre l'anarchismo, un equilibrio tra la collettività e i bisogni collettivi, senza però reprimere l'individualità. E sento che l'apothecary è la mia espressione di questo equilibrio. Sì, per te ha senso. Whatever, like I think humans need to be able to explore themselves. Sì, sì, sì, molto. No, è molto interessante. E dà molto da riflettere, diciamo, questo bisogno anche di autenticità, di come ognuno, ognuna è. Ok, quindi parliamo di roba commerciale adesso, no, beh, scherzo. Appunto no, mi piacerebbe chiederti a questo punto com'è che le persone possono usare il tuo sito, il Solidarity Apothecary, quindi che cosa offri, che tipo di supporto erboristico, e come magari anche strutturato il progetto e che tipo appunto di supporto clinico proponi. Certo, ci sono molte cose diverse, ma una delle principali sono i pacchetti erboristici di cura. Sono gratuiti, chiunque può richiederli e li preparo per persone che subiscono repressione, per i familiari dei detenuti, per gruppi di persone che fanno sabotaggi alla caccia alla volpe nel Regno Unito, anche per chi è coinvolto invece in gruppi di base che organizzano la liberazione in modi diversi, così come in luoghi di resistenza, come occupazioni della terra, campi di protesta. C'è un modulo online che le persone compilano con il loro indirizzo e controllo se stanno assumendo farmaci, se c'è il rischio di gravidanza o altre cose, e poi mando il pacchetto. Contiene erbe per sostenere il sistema nervoso e il sistema immunitario, quindi spesso servono ad aiutare le persone a gestire situazioni difficili senza ammalarsi, soprattutto se stanno lavorando o attivando progetti durante l'inverno. Preparo anche delle cose fantastiche come l'oleolito di lavanda con olio d'oliva dalla Cisgiordania o miscele di tisane. Sì, ogni pacchetto è un po' diverso, ma li finanzio personalmente e li spedisco in tutto il mondo. Ad esempio, recentemente ho inviato medicinali a persone negli Stati Uniti che resistono all'ICE, cioè quei maledetti fascisti che deportano e detengono persone. Ho inviato pacchetti anche a chi fa lavoro medico su navi di solidarietà ai migranti o chi fa sabotaggio delle cacce, insomma, richieste di ogni tipo. E questa, diciamo, è la grossa parte del lavoro. Poi però, per esempio, un altro progetto sono i Prisoner's Herbal Books, come abbiamo detto prima, e chiunque nel mondo può richiederli e li inviamo gratuitamente. C'è un gruppo straordinario che si chiama Midwest Books to Prisoners che li spedisce negli Stati Uniti, e ci sono anche diverse edizioni tradotte, c'è in rumeno, in italiano, a breve arriverà in francese, e è anche disponibile in spagnolo, e dove è distribuito in Messico, in Cile e in vari paesi della Spagna da altri compagni. E per quanto riguarda la mia clinica, offro diverse opzioni. C'è la Black Flag Herbal Clinic, una clinica anarchica gratuita in cui vediamo le persone online. E al momento ci sono soprattutto io, ma molte persone che stanno imparando erboristeria assistono alle consultazioni, ovviamente se la persona è interessata è d'accordo, e insieme stiliamo una lista di rimedi, poi li preparo e li spedisco. È disponibile gratuitamente a chiunque nel mondo si identifichi come anarchico. E poi, dato che sono una madre single e comunque viviamo nel maledetto capitalismo, insomma, ho bisogno anch'io di soldi, perciò offro anche una clinica a pagamento, però sempre a tariffa variabile. E, è un approccio molto olistico che considera diversi aspetti della salute interconnessi. E amo molto questo lavoro, vedere persone che soffrono meno, hanno meno infiammazioni, si riprendono dall'ansia cronica e altre difficoltà, è veramente straordinario. E infine, ciò che rende tutto questo possibile sono i miei corsi online, perché insegno un corso su medicina erboristica, trauma e disturbo post-traumatico da stress. È molto completo, aperto a iscrizioni in tutto il mondo. Le persone possono pagare tutto in una volta, a rate, o partecipare gratuitamente se non possono permetterselo. E sono molto grata perché questo corso finanzia praticamente il 90% del mio lavoro. Purtroppo per ora è solo in inglese, ma un giorno sarà tradotto in altre lingue. È un corso molto strutturato, copre trauma e corpo, preparazione dei rimedi e costruzione di relazione con le piante. Include 32 profili dettagliati di erbe specifiche con forte relazione con il sistema nervoso. E, dunque niente, queste sono le principali offerte, diciamo. Ok, quindi ecco, riguardo a questo corso, scusa, quanto dura e se è in gruppo o se invece sono lezioni individuali? Allora, no, è tutto completamente preregistrato, così le persone possono seguirlo al proprio ritmo o semplicemente guardarlo. Sono come dei video online e poi si possono scaricare delle slide. Non volevo creare qualcosa che richiedesse molto lavoro extra per persone che stanno affrontando appunto un disturbo post-traumatico da stress, ma volevo creare qualcosa che fosse tranquillo, facile da seguire e anche al proprio ritmo. E diciamo che il feedback che ho ricevuto è davvero pazzesco, cioè alle persone piace tantissimo il fatto di poterlo fare quando vogliono. Ah già, ma ho dimenticato di dire che facilito anche dei programmi di gruppo che sono un po' più strutturati e sono pensati per persone che stanno vivendo repressione, oppure recentemente ne ho fatto uno per persone che stanno sperimentando burnout dovuti al coinvolgimento in diverse lotte. E con questi programmi ci incontriamo ogni 2 settimane, e facciamo una chiamata di gruppo, abbiamo una chat di gruppo e poi le persone ricevono anche un supporto erboristico individuale. L'idea è un po' quella di spostarsi da un approccio individuale uno a uno verso una cura collettiva di gruppo. Quindi sì, porto avanti questi programmi durante l'anno, come se non avessi già abbastanza da fare, ma insomma mi piace davvero molto. Ok, quindi tutte queste attività sono sempre online o magari ecco questo gruppo di cui ci dicevi invece lo fai in presenza? Allora, no, quei programmi di gruppo sono online, però mi sono dimenticata un'altra cosa. Insegno anche corsi di preparazione di rimedi dal vivo, cioè insomma in presenza, 2 volte l'anno. E un terzo delle persone che partecipano ottiene un posto gratuito. Quindi se hanno problematiche economiche o di povertà possono partecipare gratis, mentre le altre pagano. E sì, sono 3 giorni con tutta la parte pratica della preparazione dei rimedi, come raccolta delle piante, preparazione di tinture, oli infusi, unguenti, e sì, è davvero super divertente, è un'esperienza molto bella. Il gruppo è sempre fantastico, molte persone splendide, e tra l'altro la mia assistente, che ora pago per lavorare con me, è in realtà una compagna italiana che aveva partecipato a uno di questi corsi, quindi dai, è buffo. Ah, pensa te. Bene, bello, bello. Tinctures, glycerites, infused oils, ointments. And yeah, it's tons of fucking fun. Like, really ok, senti, a questo punto mi piacerebbe chiederti del disturbo post-traumatico da stress, perché anche dal tuo sito del Solidarity Apothecary ne parli molto spesso, ci dedichi molto tempo. Quindi vorrei chiederti innanzitutto che cos'è, perché qui da noi in Italia non mi sembra che non se ne parli molto, un po' l'impressione che forse ecco, abbiamo due percezioni diverse di questo problema, tra Italia e Inghilterra intendo, e quindi ecco, se puoi magari spiegarci che cos'è e anche come lo affronti. Certo, allora, uso l'espressione disturbo da stress post-traumatico solo perché è culturalmente riconosciuta. In realtà non credo sia, tra virgolette, un disturbo. Non credo in questo tipo di strumento oppressivo che consiste nell'etichettare le persone con diverse diagnosi. La uso semplicemente perché è un termine familiare. E ne parlo anche nel corso, infatti analizziamo la definizione e così via. Però quello di cui cerco di parlare a un livello più ampio è come i nostri corpi siano ovviamente plasmati da tutte le esperienze della nostra vita, quindi esperienze positive, negative, tutto quanto, il modo in cui cresciamo, l'alimentazione, i livelli di stress, il fatto che fumiamo, beviamo alcol. Ci sono tantissimi fattori che modellano il nostro corpo e influenzano costantemente come ci sentiamo, contribuendo anche allo sviluppo di malattie. Ci sono anche fattori genetici o intergenerazionali, per esempio se qualcuno nella tua storia familiare ha vissuto una carestia o la fame, questo può influenzare il sistema metabolico anche diverse generazioni dopo. E, tra tutti questi fattori, il trauma, che definisco come un'esperienza molto stressante o che provoca una ferita, ha un impatto molto forte sul corpo, soprattutto sulla risposta allo stress e sui sistemi ormonali. E quando entriamo nello stato di lotta o fuga, che in passato serviva per scappare da un pericolo reale, tipo una tigre o un orso, il corpo produce adrenalina e ormoni dello stress necessari per la sopravvivenza. Ma oggi, nelle nostre società, magari non c'è un orso, cioè vabbè in alcuni posti c'è, però diciamo l'orso qui può essere la polizia, oppure il sistema carcerario, un padre abusante, uno stupratore. Ci sono molte forme di oppressione che hanno effetti molto reali sui nostri corpi e purtroppo questo ha conseguenze concrete. Il corpo può esprimere lo stress in tanti modi diversi. Può trattarsi di disturbi del sonno, per esempio, a causa di livelli elevati di cortisolo, quindi ci si sveglia durante la notte, possono essere incubi, flashback, trigger, oppure tensione estrema nel corpo, o problemi digestivi come la diarrea nervosa, la stitichezza. Tutti sperimentano lo stress e questo si manifesta nel corpo. La cosa positiva della medicina erboristica è che può offrire supporto a queste risposte allo stress, aiutandoci a sentirci più al sicuro e a riparare i danni causati dal trauma, che non sono solo eventi specifici, ma anche modi di vivere nel mondo. E per quanto riguarda appunto il disturbo post-traumatico da stress, nello specifico lo vedo come una risposta traumatica che in qualche modo rimane bloccata nel corpo. Per esempio, le mie esperienze in prigione sono state terribili, come per qualsiasi detenuto, però quando esco non sono più in prigione, eppure continuo a vedere immagini di persone che cercano di impiccarsi, continuo a sentirmi insicura nel mondo, ancora incubi in cui sono chiusa in una cella senza poter uscire. E è qui che qualcosa diventa effettivamente patologico, se ha senso dirlo in questi termini, perché quelle reazioni non sono più necessarie, dato che sei, tra virgolette, assicuro, anche se la sicurezza è un concetto un po' complesso, perché potresti comunque finire di nuovo in prigione, quindi non sei, diciamo, completamente libero, ma comunque quello che cerco di fare è supportare le persone attraverso la medicina erboristica ad attraversare, diciamo, questo disagio e a costruire una sensazione di sicurezza nel mondo. Penso che quando il trauma distrugge il rapporto con gli altri, quindi quando non ci si fida più di nessuno, non ci si sente al sicuro, le piante possono essere incredibili perché permettono una relazione che ti può far sentire più sicura. Si può costruire un rapporto con una pianta, entrare in uno stato di rilassamento del sistema nervoso. E anche per questo che molte persone amano il giardinaggio, le fa sentire calme, connesse, radicate nel mondo, e per un po' dimenticano le cose terribili. E è questo che secondo me offre l'erboristeria, non solo i rimedi, ma è tutto il processo, raccogliere le piante, preparare i rimedi, coltivare. Tutte queste attività aiutano il corpo a sentirsi più al sicuro, più vivo, più connesso, più gioioso. E per chi ha vissuto traumi molto intensi non c'è niente di più trasformativo che avere accesso a qualcosa che permetta di sperimentare una realtà diversa. E, vabbè, scusa, è stata una risposta molto lunga, ma spero di avervi dato un senso. Sì, no, decisamente. Ti ringrazio, era un'ottima risposta, anzi. È un tema, sì, molto toccante, ecco, per tutte noi, credo. Quindi ecco, forse ora una domanda un po' ovvia, ma mi chiedevo, in tutte le attività che fai, tipo la clinica, i programmi di gruppo, anche i corsi online, cioè spieghi e parli di medicina erbolistica, però immagino che offri anche una sorta di supporto psicologico in qualche modo, cioè tutto ruota attorno allo stress e alla repressione, quindi se il problema deriva da questo, ovviamente le piante dell'erbolisteria possono aiutare. Ma parli anche di come gestire queste cose a livello psicologico? In realtà è proprio per questo che ho creato il corso su erboristeria e disturbo da stress post-traumatico, perché mi è diventato chiarissimo che le persone traggono più beneficio dall'avere una comprensione del proprio corpo e un linguaggio per descriverlo più di qualsiasi cosa io possa fare per loro. Essere in grado di studiare e capire il sistema nervoso, riconoscere... Ok, questo sono io quando sono in modalità lotta o fuga e sapere che in quello stato magari non voglio il contatto fisico, non voglio mangiare, non voglio dormire, quindi chiedersi come posso aiutarmi a sentirmi più riposata, più al sicuro, più in relazione con gli altri. E nessuna erba o consulenza che io possa offrire potrà mai sostituire l'autonomia e la comprensione che una persona ha del proprio corpo. Ed è per questo che sono così appassionata di educazione, perché io ho la sensazione di aver passato l'infanzia e i miei 20 anni un po' allo sbando, facendo danni agli altri e a me stessa, proprio perché non avevo un linguaggio per quello che stavo vivendo. Cioè, non sapevo come sentirmi in un certo senso al sicuro. E per questo per me è così potente offrire tutto questo nei corsi e anche proporlo in modo interconnesso. Per esempio c'è un modulo sulle risposte collettive allo stress traumatico, perché sì, posso fare tanto lavoro individuale, studiare il sistema nervoso, lavorare con le piante, cioè tutte cose incredibili, ma se una mia amica viene torturata in isolamento in prigione, cioè allora ho bisogno di un supporto collettivo, serve una cazzo di campagna, dobbiamo lottare per lei, ha bisogno di sostegno. Quindi dobbiamo anche affrontare le cause profonde del trauma. Perché i bambini sono oppressi? Perché esiste questa diffusione dell'abuso infantile? Dobbiamo affrontare il cazzo di patriarcato, l'eteronormatività e tutte queste strutture. Non si tratta solo di trattare il trauma, non lo vedo così, ma è anche prevenirlo, fermarlo. Ecco perché l'educazione è così importante. Non è una cosa o l'altra, non è solo voglio aiutare le persone che escono dal carcere con il disturbo da stress post-traumatico attraverso l'erboristeria, ma è anche voglio impedire che costruiscano altre cazzo di prigioni. Per quanto riguarda le persone con cui lavoro, non faccio quindi una consulenza, diciamo, psicologica vera e propria o terapia, però ovviamente ascolto sempre le loro esperienze e quello che hanno vissuto per capire comunque quali rimedi erboristici possano essere utili. E incoraggio sempre le persone ad accedere a quante più forme di cura possibile, terapia verbale, erboristeria, gruppi di supporto tra amici, insomma, serve davvero tutto. Ok, ecco perché prima parlavi di approccio olistico, immagino. Sì, sì, cioè il vero approccio olistico, e quindi oltre ai differenti tipi di medicina c'è anche appunto tutta l'analisi politica e sociale, immagino intendessi anche questo. It's not one or the other, you know. It's not like, oh, I just want to support all these people leaving prison with their PTSD through herbalism. It's like I want to stop them building fucking more prisons, you know, and I yeah, want to, like, yeah. So anyway, I feel like most people listening will understand that, but, yeah. So, like, for example, with my clients, like, I'm not, like, you know, doing any sort of, like, counselling or anything like this, but, like, I am always obviously, like, listening to them and their experiences and what's happened so I can understand, like, what herbal medicine might be supportive. But I always encourage people to, like, access as much fucking care as possible, you know, like, whether that's, like, a talking therapy or herbalism or, like, you know, like, a signal group of their friends offering, like, collective support, like, Yeah, we need, you know, we fucking need it all, really. Okay, so before you talked about getting in touch with plants makes you feel... Veramente tutto super interessante, sono super contenta che stiamo facendo questa intervista. Ok, allora, prima parlavi del fatto che entrare in contatto con le piante ti fa sentire calmo, rilassata, ti fa sentire meglio, perché comunque ti riconnette alla natura, al mondo reale. E appunto sono curiosa di sapere se hai notato una differenza in questo processo di connessione con le piante tra i corsi in presenza, tipo quelli che fai, come dicevi, due volte l'anno, o magari invece i corsi online. Beh, sì, certo. Nel corso online incoraggio le persone a sviluppare una parte pratica con le piante, quindi che includa qualcosa di fisico per quanto possibile, qualcosa che coinvolga il corpo. Può essere stare seduti all'aperto con una pianta, partecipare a un orto comunitario. Penso che questa relazione incarnata sia la cosa più importante. E beh, sì, certo, quando le persone partecipano ai corsi in presenza si vede proprio l'impatto trasformativo. Cioè, per esempio, vedere dal vivo un'erba di cui avevano solo letto nel corso, perché molte delle persone che partecipano hanno già seguito il corso online, quindi per loro è tipo: wow, ma sto davvero assaggiando la melissa, oppure sto provando questo rimedio alla rosa, o sono seduta sotto un biancospino, e magari per loro è la prima volta nella vita. E quindi sì, penso sempre che questa esperienza fisica, concreta, attraverso il corpo sia davvero qualcosa di potentissimo. Ok, no, bello, mi torna tutto. E, mi piacerebbe a questo punto anche ricordare a chi ci sta ascoltando che nell'erbario anticarcerario, che appunto è anche acquistabile volendo dal tuo sito, c'è una parte molto bella, mi sembra sia uno degli ultimi capitoli, in cui parli di come entrare in contatto con le piante, cioè insomma di come ti è successo a te. E quindi anche come consigli, diciamo, di provarci, ecco. E sì, è un aspetto molto interessante, diciamo, quello di conoscere le piante come fossero, cioè, vive, però vive, sono davvero vive, ma come se fossero, come se potessero essere anche delle nostre amiche, delle nostre alleate. Ok, vorrei chiederti a questo punto come fai a produrre i rimedi che utilizzi e che diffondi, se magari sei te a raccogliere, sei te a prepararli. Sì, allora, vabbè, immagino ci siano due versioni, c'è la Nicole pre-bambino, che faceva tutto da sola, raccoglieva, coltivava, lavorava tantissimo il terreno, camminava chilometri per cercare le piante e tutte queste cose. Poi, da quando è nato il bimbo, è tutto un po' più difficile, quindi ora poi che può camminare, se usciamo vuole correre ovunque, quindi è complicato. Però quando sarà più grande potrà aiutarmi a raccogliere le piante, sarà diverso. E quindi adesso devo comprare più piante, spesso da coltivatori locali, il che è bello, eh? Inoltre c'è un'azienda che vende erbe biologiche essiccate da cui acquisto dei prodotti, e poi preparo anche dei prodotti chiamati glicerinati, che sono erbe in glicerina vegetale biologica, e li preparo usando delle slow cooker. Anzi, ne ho diverse, e tutto praticamente un edificio pieno di slow cooker che producono i vari preparati. E quindi sì, al momento è un mix, compro più cose di quanto abbia mai fatto in questo momento, però perché non ho abbastanza tempo. Però quest'anno uno dei miei obiettivi è creare, diciamo, più collettività nella produzione di rimedi e far partecipare più persone. Per questo ho avviato la Black Flag Herbal Clinic, così può diventare un vero processo collettivo. Prima mi sentivo a disagio a far pagare qualcuno per ricevere aiuto e allo stesso tempo dipendere dal lavoro non retribuito. Non mi piaceva. Ma se ho un progetto separato che offre medicine gratuite alle persone, allora sono molto più felice. Cioè, sono molto felice di aver ricevuto aiuto. Non so se ha senso. Vabbè, insomma, il maledetto capitalismo. Comunque, in breve cerco di fare più medicine possibile. Tutto ciò che non riesco a fare cerco di comprarlo da compagni e fornitrici che abbiano un minimo di integrità. E nel capitalismo è un po' più complicato, ma ci provo. Ok, ok, sì, mi sa che riesco solo a immaginare quanto sia impegnativo il lavoro di preparare tutti questi rimedi, mi sa che richiede un sacco di tempo. Sì. Infatti ho iniziato a pagare un paio di persone per aiutarmi, solo per 4-5 giorni, per preparare grandi quantità in una volta sola. E questo aiuta molto, soprattutto con i pacchetti di erbe, che distribuisco in centinaia, ma forse anche migliaia ogni anno. Quindi sì, è difficile soprattutto con un bambino piccolo, ma ci sto arrivando. You know, like comrades or from suppliers that, you know, have some kind of integrity in capitalism. It's a bit difficult, but yeah. Okay. Yeah, because I can just imagine how big is the work of making all these medicines. Like, I think it takes a lot of time. Yeah, I've started paying like a couple of people to help just for like 4 or 5 days, like to just make loads at once. And this is helping a lot, like with these herbal care packages, which have like I'm just distributing like hundreds, like if not like thousands, like each year. So yeah, like it is difficult, especially with the, with a toddler. I'm getting there. So. Okay. Okay, then I'd like to maybe we change a little not really the subject. But... Va bene, dai, ho capito. Senti, allora, cambiando un attimo soggetto, o meglio, diciamo, contesto della storia, ecco, ti volevo chiedere, prima hai parlato, accennato, di quando sei andata alla frontiera in Francia, e quindi ti volevo chiedere se vuoi un po' parlare di com'era questo progetto, come funzionava lì, anche perché, ecco, se ho capito bene, adesso non ci stai più andando, giusto? Sì, sono ancora molto coinvolta nel progetto, facendo raccolta fondi e preparando le medicine. Io preparo tutti gli sciroppi per la tosse e altre cose, però purtroppo non sono riuscita ad andare di persona a lavorare nella clinica a causa del bambino. E la clinica erboristica mobile di Calais cerca di operare ogni mese, ma spesso è difficile per motivi economici. Normalmente è una settimana al mese e lavoriamo a Calais e Dunkerque nel nord della Francia. Abbiamo un team composto da un medico e altri tre erboristi e a volte qualcuno che fa da traduttore. Abbiamo anche un furgone e ci spostiamo nei vari accampamenti della zona per offrire primo soccorso. Abbiamo una postazione interna dove supportiamo le persone con tosse, raffreddori, infezioni respiratorie superiori e problemi gastrointestinali a breve termine, come per esempio la diarrea. E poi c'è una postazione esterna per medicazione e cura dei piedi, ad esempio per le infezioni fungine. Tutto questo è fatto in solidarietà con persone in movimento che vivono ovviamente in condizioni terribili a causa dello Stato, del razzismo e della violenza del regime delle frontiere. Vediamo spesso ferite causate dalla violenza della polizia e persone che rischiano di annegare cercando di raggiungere il Regno Unito. Quindi è molto intenso. Ma le persone che assistiamo però amano davvero molto la medicina erboristica perché provengono da contesti dove ci sono tradizioni molto più forti di uso delle piante. Quindi è bellissimo poter parlare con loro di piante e rimedi. Prepariamo tutte le medicine da soli ed è un progetto veramente enorme, costoso da gestire, che richiede molto lavoro di base, organizzazione e formazione. E sì, ci sono stati molti stress negli anni, specialmente durante la pandemia, però penso che sia un bellissimo esempio di solidarietà erboristica. Tutte queste medicine sono efficaci in questo contesto, per esempio per impedire che tosse o raffreddore si trasformino in qualcosa di più grave come una polmonite e per aiutare con la guarigione delle ferite come morsi di insetti o altre conseguenze di chi vive all'aperto. E è un esempio incredibile di solidarietà e anche di medicina erboristica applicata in pratica. Sono ancora super appassionata e penso proprio che quando il bimbo sarà un po' più grande tornerò a lavorare in Francia, sì, ne sono sicura. Ho capito. E, senti, le persone che passano dalla frontiera, che provano ad attraversarla, quanto tempo restano lì nelle situazioni di confine? Cioè sono solo di passaggio, quindi magari restano una notte, provano a ripartire il giorno dopo, o magari insomma, anche tempi più prolungati? È molto variabile. Alcune persone restano solo per poco, per esempio se qualcuno ha un po' di soldi per pagare qualcuno che gli aiuti a trovare un posto su una barca, magari resta solo poche notti nei campi. Altri invece possono vivere lì per anni, dovendo fare anche lavori sessuali o altre cose per sopravvivere. purtroppo questo fenomeno è molto legato al razzismo. Spesso sono ragazzi provenienti dal Sudan, per esempio, che non hanno soldi, e per loro pagare qualcuno per attraversare è davvero difficile rispetto a chi ha più risorse economiche. Quindi non è raro che tu vada lì un mese e poi il mese successivo veda le stesse persone, e nel frattempo stanno cercando di attraversare provando a salire su camion o sulle barche. Ho incontrato intere famiglie che sono morte una settimana dopo, inclusi bambini. Ho incontrato un bambino e una settimana dopo era sul fondo del mare, cioè una roba terribile. Immagino che molti ascoltatori abbiano fatto lavori di solidarietà con i rifugiati, ma è davvero sconvolgente vedere a cosa le persone sono sottoposte, come devono vivere, quali rischi devono affrontare cercando di arrivare nel Regno Unito. Abbiamo visto persone torturate in Libia, persone che hanno perso una gamba perché esplosa dai talebani, c'è così tanta violenza, è davvero intensa. La polizia in Francia e ovunque in realtà può essere spietata, ma lì è particolarmente violenta, vediamo davvero molta violenza la polizia. Quindi sì, cioè, le persone restano lì per periodi di tempo molto diversi. Ok, scusa, forse me lo sono perso, ma quando dici appunto che andavi lì, ci andavi appunto una volta al mese, quindi ci stavi qualche giorno e poi tornavi indietro? Sì, sarebbe tipo una settimana intera e poi torniamo nel Regno Unito. Abbiamo discusso molto su se fosse possibile mantenere una presenza più lunga, ma il problema è che facciamo tutte le medicine da soli e solo per 5 giorni servono circa 3.000 sterline, perché vediamo centinaia di persone. Fare questo tutti i giorni dell'anno richiederebbe praticamente decine di migliaia di sterline ed è una roba, cioè, stressantissimo, perché è così difficile ottenere donazioni, fare raccolte fondi, vendere magliette, cioè richiede tantissima energia e ti senti sempre pensare, ma ci servono più risorse. Quindi sì, per ora è solo una settimana al mese, questo sembra abbastanza sostenibile, anche se resta una vera sfida. Ok, ho capito. E quindi le 3 settimane del mese, diciamo, in cui non ci siete voi, c'è un'altra clinica che vi sostituisce? Allora, non c'è una clinica di medicina erboristica sostitutiva, ma ci sono altri gruppi. C'è un gruppo fantastico chiamato No Borders Medics, che opera a Dunkirk, e sono straordinari, hanno un'ottima politica e hanno una presenza stabile. Poi ci sono Medici Senza Frontiere e anche un altro team di primo soccorso britannico chiamato FAST. Quindi c'è qualche servizio sanitario e inoltre nella zona c'è un reparto ospedaliero che vede persone senza documenti. E molti rifugiati però non sanno nemmeno che esiste, quindi una parte importante di quello che facciamo con la clinica è dare informazioni. Abbiamo volantini tradotti in circa 20 lingue su dove trovare l'ospedale, dove ricevere cibo, dove trovare distribuzione di vestiti. Il nostro obiettivo è sempre supportare le persone che devono andare in ospedale, e facciamo anche advocacy dentro l'ospedale, perché come sai ci sono persone razziste, quindi aiuta avere un volontario bianco che parla francese per assistere le persone. E le 3 settimane tra un viaggio e l'altro le passiamo a fare altre cose, quindi preparare medicine, raccolte fondi e tante altre attività. Ok, ho capito. E mi chiedevo invece com'è il rapporto vostro con la polizia, cioè vi rompono le palle, avete problemi, anche dal punto di vista legale, cioè per voi sarebbe legale stare lì con la clinica? Allora, è un po' complicato per quanto riguarda la medicina erboristica in Francia, perché in realtà è illegale praticare senza essere medico. Noi abbiamo medici francesi nel progetto, il che aiuta, ma sì, subiamo molestie dalla polizia che vogliono controllare i documenti e cose del genere, però ovviamente non è nulla rispetto a quello che subiscono i rifugiati. Qualche anno fa, per esempio, il mio furgone è stato completamente distrutto da fascisti dopo una lite con la polizia mentre cercavamo di distribuire aiuti in un sito che cercavano di bloccare, e la mattina successiva verso le 5 ho sentito un botto e il parabrezza era stato colpito. Per fortuna nel giro di poche ore abbiamo preso un altro veicolo, ho fatto una raccolta fondi e siamo riusciti a sostituire il parabrezza. Purtroppo adesso l'estrema destra, specialmente dall'Inghilterra, viene in Francia per colpire le persone in movimento e i volontari. E le cose sono sempre state tese, ma mi preoccupo che la situazione possa peggiorare. Però vedremo come andrà. Ho capito, che lavoro enorme. Comunque sì, mi sembra veramente bellissimo il fatto di usare l'erboristeria anche in questo ambito qua, e di supporto proprio alle persone per provare in qualche modo a lottare contro tutto questo stress, tutta questa repressione dello Stato, quindi veramente un bellissimo lavoro quello che fate. Benissimo, allora senti, ti ho chiesto già tantissima roba, ci hai dato un sacco di informazioni interessanti, quindi direi se vuoi aggiungere qualcosa, cioè, tanto potremmo continuare a parlare per ore, però insomma magari a un certo punto troviamo una fine. Sì, certo, purtroppo devo andare tra poco, ma credo di aver dimenticato di dire all'inizio che ho fatto un libro che si chiama Herbalism and State Violence, che parla di tutto questo, quindi di tutti i diversi progetti, di come preparare pacchetti di erbe per persone che vivono repressione, di tutto sulla clinica a Calais, le nostre varie ricette, come lavorare con il sistema nervoso. No, è solo in inglese, ma se qualcuno fosse interessato a questo lavoro può comprarlo quindi come libro fisico da Active Distribution oppure come ebook sul mio sito, e in inverno sarà anche pubblicato da PM Press. Questo libro quindi raccoglie, diciamo, tutto ciò di cui abbiamo parlato in un unico posto, quindi potrebbe essere una buona risorsa per concludere. Ok, perfetto, perfetto, grazie mille. E, ok, quindi concludo anch'io dicendo che, appunto, come accennavi già prima, tramite il tuo sito c'è un modo di darti donazioni, quindi io ecco, diffonderò tutti i vari link utili affinché questo possa essere fatto, quindi nella pagina del sito, nella pagina di questo podcast poi rimetterò ecco, il link al tuo sito. E quindi grazie appunto ancora tantissimo. Se devi andare via subito non c'è problema, altrimenti magari ti avrei chiesto la pianta storia così alla fine. Cavolo, sì, ok, allora posso solo, diciamo, ripeterti rapidamente che sceglierei il dente di leone, che è anche quello che mi portava a dormire sotto in cuscino in cella, quindi sì, ti direi così. E comunque puoi leggere questa storia anche nel libro Erbario Anticarcerario. Ok, ok, perfetto. Sì, sì, è una storia molto bella, infatti me la ricordo. E, grazie mille allora tantissimo, è stato veramente super bella questo collegamento. E restiamo in contatto, i microfoni di Radio Wombat sono sempre aperti, e quindi anche per progetti futuri, insomma, ci possiamo ricontattare. Grazie, ciao. Grazie mille, ciao. There is the way of getting new donations for all the different projects you do, and of course I will copy the link of your website on the podcast page of this episode. Amazing. So yeah, listeners can find it, and yeah, I really thank you so much. I don't know if you really have to leave, no worries, otherwise I would ask you the plant story. Oh yeah, but... shit. Yeah. Okay. Well, yeah. I can just say again about like the dandelion, that like this was my gateway herb, of like finding this herb in the prison garden and sleeping with it under my pillow, and like, yeah, like you can read about this story in the Prisoner's Herbal book. Yeah, okay. Yeah. It's a very nice story. Yeah, very cute also. Yeah. Okay, thank you so much then. It's been thank you. So important. Thank you again so much. Amazing. Nicole, and no problem. Yeah, keep in touch, and the Wombat Radio microphones are open for other projects that you will manage to do in the future. Perfect. Yeah. All right, take care. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Yes. Okay, bye. Bye-bye. Dans le monde. profond que il cause en moi. Comme si dit à faire un sens n'a point où le loin. Comme si voix m'y connaît. Comme si oblige écouter. Comme si décide la terre. Et pose, repose à moi. Seulement si mes gains dans de réponse qu'on lui dit. T'as mis son corps ça. T'as mis pourquoi. Comme à tout la nuit. T'as mis son corps ça. Some cool.